Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, puntata come sempre venerdì in cui avremo anche l'appuntamento con la poco invidiabile classifica degli sprechi o dei cattivi funzionamenti della pubblica amministrazione, ma come sempre avremo anche il caso virtuoso di chi ha lanciato un'impresa, una startup come si chiama in gergo, durante questi anni di crisi. Come promesso ieri, ci occuperemo invece anche di un'altra vicenda che sostanzialmente ha segnato l'inizio della settimana del programma. Mi riferisco al salvataggio con costi non indifferenti per azionisti, obbligazionisti, subordinati ed eventualmente anche noi cittadini, nel caso poi gli asset di queste quattro banche, Cari Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Cari Chieti, non potessero ridare i soldi alle banche che hanno fornito parte di questo prestito. Ma dicevo, abbiamo fatto notare più volte che l'Italia è stata usata come cavia prima che dal 1 gennaio scatti il cosiddetto bail-in, ossia il fatto che tutte le banche verranno, per i salvataggi eventuali delle banche, si userà quello che noi abbiamo battezzato il metodo Cipro. E quindi pagano gli azionisti, pagano gli obbligazionisti e quant'altro, e i correntisti sopra i 100.000 euro. Per quello che riguarda invece la vicenda più in generale, abbiamo fatto solo notare che c'è stato un comportamento un po' strano in questi anni, cioè la sensazione è stata che sostanzialmente prima i paesi più forti, caso specifico la Germania, si siano sistemati i casi loro, le vicende loro. Faccio solo un anticipo, ne parleremo alle 18, ma insomma tra il 2008 e il 2012 la Germania ha erogato 64 miliardi di euro al suo sistema bancario, che era molto esposto sui derivati, sui mutui subprime. Era il primo investitore in Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna, dimostrazione che poi i paesi del sud Europa non piacciono quando bisogna parlare dei deficit, ma quando c'è da speculare con gli investimenti piacciono, pur sapendo che la Grecia era in difficoltà anche nel 2008. Dopodiché a questo punto si è partiti con la riforma che riguarda tutte le banche europee. C'è chi ha detto e scritto, insomma, l'Italia poteva alzare un po' di più la voce e ricordare che la Germania ha bloccato ogni riforma del sistema bancario, unione bancaria, finché le faceva comodo. Non c'è niente di polemico, è così. E poi quando ha sistemato, ripeto, 64 miliardi, in Italia ha tirato fuori per Monte dei Paschi con un'obbligazione che comunque ha un alto rendimento per lo Stato, 4 miliardi, e poi questa è la proporzione. No, perché poi la retorica sui paesi che chiedono aiuto è sempre rivolta ai paesi del sud Europa. Intanto tu hai salvato con 64 miliardi, hai sistemato un sistema bancario che ancora presenta numerosi dubbi per alcuni versi, e adesso fai l'unione bancaria una volta che, diciamo, i buoi non è che sono scappati, in questo caso li hai fatti rientrare in stalla. A questo punto ti occupi degli altri paesi. Per quello che riguarda il mercato finanziario di oggi invece il dato è assolutamente invariato. Milano, oggi il Dow Jones è aperto ma chiuderà la borsa statunitense alle 19, perché come ricordavamo ieri era chiuso per il Thanksgiving, per il giorno del ringraziamento, e oggi chiude alle 19, ora italiana chiaramente. Dow Jones invariato anch'esso, Parigi meno 0,20, Francoforte meno 0,20, Londra meno 0,35%. Poco mossa oggi le borse, l'euro è sotto quota 1,06 a 1,0590, Telecom Italia va bene più 2,80, Jux più 2,5, Monte dei Paschi più 1,90%, Azimut più 1,18%, l'1% lo guadagna A2A, lo 0,80 Intesa San Paolo, mezzo punto il rialzo di Unipol, Snam e Fiat Chrysler. Per quello che riguarda i titoli che perdono, Buzzi Unice meno 3,20, Moncler meno 3, ST Microelectronics meno 2, Tenaris meno 1,90, Pop Emilia Romagna meno 1, come Mediobanca e Ubibank. Lo 0,90 lo perde Saipem, meno 0,70 Eni e Ferragamo. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms e per WhatsApp. Poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, come sempre, notizie di carattere internazionale per quello che riguarda gli Stati Uniti. Questo è il famoso Black Friday, nel senso che con le festività del giovedì per il Thanksgiving, il venerdì, la borsa che lavora a metà, è il giorno dei grandi, dell'inizio del grande shopping e soprattutto dell'inizio, scusate la qualità di voce oggi non eccellente, dell'inizio dei grandi sconti dopo la festa del ringraziamento. Anche quest'anno risse e tensioni tra la folla per accaparrarsi le migliori offerte. Tra l'altro però alcuni fanno notare che sempre meno questa abitudine in America si dimostra attuale, moltissimi ormai acquistano online. E quindi, ma poi ci sono casi interessanti. A Louisville due uomini si sono presi a calci e schiaffi strappandosi i vestiti all'interno di un grande magazzino poco dopo la mezzanotte. Se ti prendi a calci e schiaffi e ti strappi i vestiti, porti a casa poco. Gli incassi negli Stati Uniti dovrebbero essere comunque abbastanza alti, perché si calcola che saranno 135 milioni gli americani che approfitteranno di queste offerte per tutto il weekend, un po' in aumento di 2 milioni rispetto all'anno scorso. Si aspetta anche una crescita del valore di quanto verrà acquistato intorno al 4%. Può parlare di Black Friday, ma per un altro motivo. Invece oggi la borsa di Shanghai e in generale le borse asiatiche, oggi parecchio sotto pressione, non tanto Tokyo che ha perso lo 0,30, Hong Kong ha perso l'1,80%, Shanghai ha fatto un tonfo del 5,5%. Sostanzialmente hanno perso tutti i titoli finanziari, i titoli legati alle materie prime e legati alla valuta. Che cosa è successo? Tra le altre cose, i broker di CITIC Securities e Guzon Securities hanno annunciato di essere oggetto di indagini governative per presunte violazioni alla vigilanza. Le autorità cinesi hanno vietato ai broker l'utilizzo dei derivati, a tutti i broker, l'utilizzo dei derivati per finanziare l'attività di vendita di azioni ai loro clienti, e la banca centrale ha iniettato comunque 100 miliardi di yuan di liquidità al sistema bancario. Ci spostiamo in Europa, dove Hervé Falciani, qualcuno se lo ricorderà, è l'informatico italo-francese della banca svizzera HSBC, che trafugò la famosa lista di clienti, la lista Falciani, c'erano anche molti italiani, americani, tedeschi, francesi, di clienti che avevano un conto corrente lì, e per cui l'accusa che si profilava e si è profilata in molti casi era di evasione fiscale e di esportazione illecita di capitali. Falciani comunque è stato condannato a 5 anni di reclusione per aver sottratto e divulgato dati di clienti della filiale di Ginevra. Lo ha condannato il Tribunale di Ginevra, che lo ha riconosciuto colpevole di spionaggio economico, proscioglendolo dagli altri capi di accusa. Ancora, per quello che riguarda invece l'economia europea, oggi la Gran Bretagna conferma una buona crescita della propria economia, la migliore, più 2,3% sull'anno, più 0,5% nel terzo trimestre. E in Spagna invece rallenta la deflazione, ma continua a esserci una deflazione in Spagna, ossia prezzi in calo, dimostrazione di consumi molto difficili. In Spagna meno 0,4% i prezzi su base annua. Nel frattempo continuano le buone notizie per il nostro debito, lo stiamo raccontando da due settimane. Il fatto che Mario Draghi abbia inondato di liquidità, diciamo così, con i quantitative easing, e che le banche abbiano difficoltà a prestare soldi alle imprese, sono un po', posso tornare sempre su questo tema, un po' per le regole di Basilea, le regole europee, un po' per colpa delle banche e anche ogni tanto per colpa delle imprese, fa sì che questa liquidità vada, adesso la spiego in maniera un po' sommaria, vada a essere investita in titoli di Stato, con la conseguenza che c'è molta domanda e i vari stati, per trovare finanziatori del proprio debito, possono offrire niente, anzi i rendimenti sono andati in negativo, cioè pur di mettere i soldi da qualche parte, uno preferisce metterli in un bot a 6 mesi, in un bot a 1 anno, che pure hanno rendimenti negativi, piuttosto che tenerli eventualmente o investirli in altre formule. Allora, oggi il nostro spread è sceso ai minimi, nel senso, ma soprattutto il mercato obbligazionario complessivo in Europa ha continuato ad avere rendimenti sempre più bassi, anche perché ci si aspetta una nuova iniezione forte la prossima settimana da parte della Banca Centrale Europea, visto che poi ha detto che sospenderà un po' il quantitative easing durante le vacanze natalizie. E allora il nuovo minimo storico per i rendimenti del BTP italiano a 3 e a 5 anni rispettivamente, quello a 3 anni rende, cioè chi presta soldi allo Stato italiano ottiene per 3 anni ogni anno un rendimento lordo dello 0,04%, cioè niente, mentre anche è un lordo. Chi presta a 5 anni ha un rendimento dello 0,32%. Il titolo tedesco a 5 anni, il Bund a 5 anni, è sceso per la prima volta sotto lo meno 0,2, che è la soglia sotto la quale la BCE non può comprare, cioè la BCE non può comprare titoli di Stato negativi oltre il meno 0,2%, perché sennò si fa male da sola, nel senso che ci va a perdere. Lo spread tra noi, lo spread tra il nostro BTP e quello tedesco, la differenza tra quanto rendono, è sceso dai minimi, ossia 93,5 punti. Qualcuno ricorderà quando lo spread era a 500 punti durante l'attacco speculativo all'euro. E in effetti nell'asta di oggi dei BTP a 5 anni lo Stato ha collocato 2 miliardi e mezzo di debito a 5 anni pagando solo, lo Stato italiano, lo 0,37% di rendimento. Tra l'altro la domanda buona come anche già ieri. Sempre per quello che riguarda le imprese, e ci riferiamo all'Italia, la fiducia è stabile e resta comunque alta, ai livelli più alti da prima della crisi, cioè 107 punti anche a novembre, 107 anche a ottobre. Siamo ai livelli come fiducia delle imprese italiane più alti dall'ottobre del 2007, anche, io so che adesso la gente si arrabbierà, ma quale paese raccontate? Ho capito, questa è l'Istat che monitora ogni mese l'andamento di fiducia delle imprese e dei consumatori. Anche la fiducia dei consumatori è a livello più alto, in questo caso da sempre, da quando viene misurata, dal 1995. L'Istat ha sottolineato che il dato risente solo in minima parte degli attentati di Parigi, perché la rilevazione si è concentrata nei primi 15 giorni di novembre, però ha toccato 118,4 punti, il livello più alto, ripeto, nella fiducia dei consumatori mai registrato. E su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore con Salvatore Padula. Proprio stamattina nei nostri 100 secondi abbiamo segnalato come sia l'allarme terrorismo sia il rallentamento delle economie dei paesi emergenti, prima fra tutte quella cinese, stiano rendendo più incerto il quadro economico, ovviamente anche quello italiano. È vero che oggi dall'Istat è arrivato un dato molto positivo sulla fiducia dei consumatori e delle imprese, che a novembre ha toccato i livelli più alti di sempre, ma va detto che questa rilevazione è stata fatta prima degli attentati di Parigi, quindi vedremo come ne risentirà la fiducia in seguito. L'altra notizia importante della giornata arriva però proprio dalla Cina. La borsa di Shanghai ha registrato il suo peggior risultato da questa estate, quando il mercato azionario era letteralmente collassato. Che cosa è successo oggi? C'è stato un crollo dell'indice pari al 5,5%, che si spiega da un lato con l'apertura di un'indagine legata a uno scandalo che ha colpito alcune società di brokeraggio colpevoli di aver falsato i rendiconti ufficiali, ma dall'altro lato non è un caso che la caduta di oggi coincida anche con un dato economico che conferma il rallentamento della locomotiva cinese, cioè la flessione del 4,4% dei profitti delle imprese industriali. Pessima notizia per l'economia globale e per la nostra economia in particolare, visto che la frenata della Cina Cina e degli altri paesi emergenti finisce per avere pesanti effetti negativi sul nostro export. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms. Ascolteremo anche più avanti, nella seconda ora, prima di parlare di banche. Abbiamo rubato una cosa a Giovanni Minoli, che ha rubato chiaramente in maniera scherzosa, perché questa mattina a Mix 24 c'è stato un botta risposta tra le dichiarazioni del Premier Renzi, il tema era la soglia dei 3.000 euro del contante, e Milena Gabanelli, nota conduttrice di Report. Siccome è un botta risposta molto divertente, ve lo facciamo ascoltare alle 18, ve lo riproponiamo alle 18, perché è già andato in onda appunto con Mix 24 questa mattina. Adesso però, meno divertente, ahimè, è la classifica che ogni venerdì pende su di noi come una spada di Damocle: i 5 sprechi o cattivo utilizzo di denaro da parte della nostra pubblica amministrazione. Classifica sia. La classifica della settimana. Vorrei partire con un messaggio che mi ha mandato un ascoltatore su WhatsApp, mostrando un bellissimo tramonto a Roma, visto che si ferma Emanuela, un'ascoltatrice, mi scusi, e dice: con un tramonto come questo stasera non riesco ad arrabbiarmi per nessun tipo di spreco di questo meraviglioso paese. Il paese è meraviglioso, noi lo vorremmo ancora più meraviglioso, ma soprattutto vorremmo, con questa classifica, che qualcuno si vergognasse, perché poi i comportamenti partono dalla vergogna. Non è che può sempre intervenire la magistratura, però anche oggi di magistratura dovremmo parlare. Che l'Italia sia un paese meraviglioso, sono d'accordissimo con l'ascoltatrice, c'è chi tenta di rovinarlo. Partiamo proprio dal paese meraviglioso e dal nostro petrolio, ossia i giacimenti culturali. Siamo il paese che ha più siti UNESCO al mondo, il 50, ci riempiamo sempre la bocca di sta cosa, il 50% dei siti UNESCO sono in Italia, verissimo, poi bisogna anche farli vedere. Torniamo quindi sulla reggia di Caserta, ne avevamo parlato la scorsa settimana, no? Segnalando il fatto che le sigle sindacali, mi sembra che siano 6, di chi lavora alla reggia di Caserta, fossero sul piede di guerra all'ipotesi di tenere aperto Natale e Capodanno, perché giustamente quando tu hai un giacimento culturale come quello, un patrimonio culturale come quello, devi andarlo a visitare il lunedì o il giovedì durante l'orario di lavoro, no? Perché mica puoi andare a Natale con la famiglia o Capodanno perché non stai lavorando, ci sono le festività. Devi andare il martedì magari alle 5 del pomeriggio o il giovedì alle 11, perché non gliene frega nulla ai dipendenti che uno abbia, se può, anche un lavoro nella vita con cui, se riesce, mantiene una famiglia. Niente, per ora ne esce sconfitto il neo direttore della reggia di Caserta, uno di quelli nominati con le famose nomine dei direttori museali, Mauro Felicori. Sostanzialmente lui ha confermato anche sulla pagina Facebook che resteranno chiusi a Natale e a Capodanno. L'unica apertura straordinaria sarà l'8 dicembre. Parla di sconforto e occasione persa non il sottoscritto, ma Umberto Riccio, presidente del distretto turistico di Caserta. È un consorzio che unisce le varie proloco della provincia nel tentativo di organizzare eventi e promuovere l'offerta culturale locale. I sindacati hanno fatto un po' di maretta sulle aperture straordinarie, invece poi dicono che attendevano con ansia un incontro, ma lo stesso direttore ha detto che il numero delle ultime aperture natalizie non giustifica i costi di un monumento aperto, ha detto che bisogna convincere la gente a uscire di casa, invece la programmazione è assente, dice lo stesso Umberto Riccio. È inutile aspettare che i monumenti si riempiano da soli, ho capito, tutto bene, ma se non iniziate ad aprirli questi monumenti, è chiaro che se uno non sa se la reggia di Caserta è aperta a Natale, non ci va e basta, okay? Poi è giusto legare a un'apertura straordinaria a Natale, a Capodanno, anche degli avvenimenti, dei momenti, quello che volete, inventatevi quello che volete, avete una reggia che è pazzesca, è bellissima, bisogna tenerla chiusa a Natale e Capodanno. Ma arriva anche la conferma che sia una grandissima cavolata, lo dice anche Ettore Cucari, presidente di Fiavet Campania e Basilicata, leggo testualmente: non aprire la Reggia nei giorni di festa è l'ennesima opportunità persa per far qualcosa e risollevare le sorti del turismo. L'indecisione continua, che fa annunciare prima l'apertura straordinaria e poi la fa annullare, arreca un ulteriore danno agli operatori, che così si troveranno impreparati alle eventuali richieste dei turisti. Certo, non cambia molto, aggiunge lui, che opera, che appunto rappresenta il tour operator, le agenzie di viaggio, visto che le prenotazioni avrebbero dovuto già essere fatte, quindi a questo punto tenetela chiusa. Non è che uno annuncia a fine novembre, resteremo aperti a dicembre, e tutti si precipitano. E continua, Cucari, si continua a ragionare in un'ottica last minute, mentre si dovrebbe provvedere a organizzare già l'apertura per il Natale 2016 e per il Capodanno 2017, se si vuole fare qualcosa di utile, anche perché così si aiutano le imprese, l'artigianato, l'enogastronomia e il settore alberghiero. Quindi questo giro, il Natale, i dipendenti della casetta lo fanno con i loro familiari e va bene, e anche Capodanno. Potete almeno organizzare per l'anno prossimo, in modo che poi i tour operator, le agenzie di viaggio possano unire a un pacchetto, non so, Pompei, Positano, Caserta, il tour della Campania, e sappiano con certezza che si potrà vedere la Reggia di Caserta? Perché queste pianificazioni si fanno, non si può aprire e chiudere all'ultimo minuto. Comunque, su web una marea di invece segnalazioni sulla volontà dei sindacati di dire no a questa apertura straordinaria, soprattutto a causa del mancato preavviso che non permetteva loro di organizzare a dovere il lavoro. Cioè, il mancato preavviso che sei aperto. Adesso vediamo se questo è il motivo. Diteglielo da oggi, nel 2016 sarai aperto, e vediamo se c'è ancora un problema di mancato preavviso. Leggo e poi chiudo con questa vicenda la dichiarazione del presidente di Confindustria Caserta, si chiama Luciano Morelli. Questi comportamenti mi indignano, sono l'ennesima dimostrazione che i nostri monumenti sono in balia di una banda di facinorosi impegnati in mere battaglie di retroguardia. Una vergogna per l'Italia, come furono i casi di Pompei e del Colosseo durante l'estate. Spero solo che il nuovo direttore Felicori riesca a riportare sui giusti binari la situazione della Reggia. Credo in effetti che gran parte del degrado sia dovuto alla scarsa professionalità e la scarsa volontà dei dipendenti di lavorare seriamente, invece di rimanere attaccati a sigle sindacali pensando di essere i padroni del palazzo del Vanvitelli. In un paese normale potresti anche mandare tutti a casa, ne riassumi il numero equivalente, quindi non tocchi l'occupazione. Cioè, grazie ragazzi, ci sono tanti disoccupati in questo paese che non vedono l'ora di lavorare per un monumento così bello come la Reggia di Caserta, ma so che sarà impossibile. Lo scarso preavviso. Andiamo al quarto posto, all'Aquila. Cosa deve fare una mamma all'Aquila già con tutto quello che è successo col terremoto di quasi sette anni fa? Cosa deve fare una mamma all'Aquila se vuole vaccinare suo figlio, come tutte le mamme di questo paese che prima delle influenze vaccinano i bambini? Ha a disposizione un container, un ambiente maleodorante, poco spazio vitale in cui i bambini non riescono a muoversi, cartelli penzolanti e una struttura in lamiera utile per i bambini perché è calda in estate e umida d'inverno. Ma che sono i piombi veneziani? In un contesto di abbandono e sporcizia in cui si trova l'area di Colle Maggio, un grande parco che potrebbe essere un gioiello non solo per i servizi sanitari, ma invece è giustamente un ritrovo di cani randagi. Quindi, con questi cartelli penzolanti, cattivi odori, un solo ambiente per accoglienza, un ambiente in cui tra l'altro si trova anche il frigorifero dei medicinali, per cui tutti possono aprire, che è giusto, perché il bambino notoriamente non è uno che va in giro a aprire i frigoriferi e toccare cose, e infatti giustamente i medicinali li lasciano lì nel caso uno avesse voglia di fare piccolo medico. Allora, i bambini ammassati in attesa del vaccino entro dicembre giurano, guardate che ci siamo quasi dicembre, che sarà spostato. Fatto sta che, essendo un container, essendo collocato in questa bella struttura che assomiglia ai piombi veneziani, così i bambini si abituano fin da piccoli alle durezze della vita, riescono a vaccinare solo le prime 30 mamme, così uno arriva, anche perché c'è la carenza di personale. Qui abbiamo il record di disoccupazione e poi c'è la carenza di personale. Quindi le prime 30 mamme vengono, i bambini delle prime 30 mamme vengono vaccinate, la 31esima torna a casa e nonostante si sia presa il permesso e come c'era nelle caramelle di una volta, ritenta, sarai più fortunata. Del resto cosa volete che sia? È un vaccino, no? Invece al San Camillo di Roma, e poi vado al meteo, stanno trovando un modo per accorciare i tempi, diciamo, i tempi ospedalieri. Perché in effetti, se uno ci pensa bene, andare in sala operatoria, farsi operare, uscire, andare nel letto di degenza, dozzinanti o non dozzinanti, è una perdita di tempo. Quindi cosa hanno deciso? Che dalla sala operatoria non esci più, resti in sala operatoria. Non sto scherzando, no, ma vivo, nel senso che alla neurochirurgia del San Camillo, che è l'ospedale più grande di Roma, chi viene operato per una patologia al cervello resta in camera operatoria perché non c'è spazio. C'è un piccolo dettaglio, che questo qua è già operato, ma restando in sala operatoria, siccome non riescono ancora a operarli uno sopra l'altro, non hanno ancora fatto i letti a castello, i tempi di attesa per gli interventi si allungano e i chirurghi o operano due volte uno già operato, o gli chiedono di spostarsi ma non c'è posto, o quello che deve essere operato attende, non è che c'è molte. Allora, il primario, poveretto Alberto dell'Italia, dice: una scelta obbligata per la carenza di posti letto in rianimazione. Per salvare i pazienti dobbiamo lasciarli in sala operatoria, dove sono assistiti con la respirazione artificiale e il controllo dei parametri vitali, dalla pressione arteriosa al battito cardiaco. Restano per 3-4 giorni. Adesso io, a me viene da ridere, è una cosa tragica questa. Restano in sala operatoria già operati, ma restano in sala operatoria per 3-4 giorni, con la conseguenza che qualcuno assiste anche ad altri interventi. No, ma è bellissima questa cosa, cioè, no? Perché non solo hai avuto un intervento, non solo ti hanno operato al cervello, ma devi pure stare lì, dice, ma come gli ospedali americani, la TV, i fiori. No, hai accanto uno che viene operato, così magari verifichi e impari, no? Puoi fare anche un confronto. Assistono anche ad altri interventi perché i medici giustamente continuano a operare anche con un ricoverato in sala operatoria. Io spero solo Dio che non si sbaglino, perché poi nella fretta vai a vedere se vai a rioperare l'operato e pensi che sia operato quello da operare. Quando i degenti aumentano, se tutti i letti sono occupati in sala operatoria, a quel punto le operazioni si fermano. Comunque, a fine mese arriveranno altri 20 posti letto in rianimazione. I medici hanno scritto all'azienda regionale dei soccorsi chiedendo di dirottare verso altri ospedali con centri di neurochirurgia i pazienti da curare con urgenza. A causa del sovraffollamento c'è chi deve aspettare anche 5 mesi per farsi asportare un tumore cerebrale benigno, nella speranza che sia veramente benigno, perché magari lui non lo sa e diventa maligno. Meteo. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. La classifica della settimana. A proposito, mi scrive un ascoltatore: non so se sei più cretino tu oppure la tua classifica. Secondo me c'è una terza possibilità. Comunque, andiamo avanti con questo e devo dire che il fatto che al San Camillo di Roma, mancando i posti letto, diciamo, mettono chi è stato operato, lo lasciano sul letto della sala operatoria, così capita anche di assistere ad altri interventi, sta scatenando la vostra fantasia. C'è chi sostiene che a questo punto potrebbe essere riconosciuto come tirocinio, nel senso che uno che assiste a un'operazione di un altro può iniziare a gli vale come tirocinio. Qualcuno che può commentare: e la degenza in sala operatoria avviene dopo quanti giorni si prende l'abilitazione ad operare, ma io immagino anche i commenti, non so, il medico che sta operando, guardi, è sicuro, cioè questa è la follia, la follia. Ma andiamo al secondo e al primo posto, devo andare rapido. Allora, al secondo posto uno potrebbe anche vederla come una buona notizia, noi la diamo solo come notizia, ossia notizia di oggi, abbiamo dovuto un po' cambiare la classifica, la procura di Ancona ha chiuso l'inchiesta sulle presunte spese pazze. Ma in questo paese è asfalto assassino, pioggia killer, spese pazze, no, guardate, è automobilista cretino, consigliere ladro, non è che sono pazze le spese, poverette, le spese sono degli oggetti inerti, è il consigliere che è un ladro. Allora, dicevo, la procura di Ancona ha chiuso l'inchiesta sulle presunte spese pazze per 1.200.000 euro del consiglio regionale fra il 2008 e il 2012. Tanto pazze non erano, perché ha chiesto il rinvio a giudizio di tutti i 66 indagati, 61 politici e 5 funzionari. Il 18 gennaio la prima udienza, tra i rinviati a giudizio anche gli assessori Moreno Pieroni, l'assessore alla cultura e al turismo, l'assessore all'ambiente Angelo Sciapichetti del PSI Uniti per le Marche, il primo del PD il secondo. Rinvia giudizio anche per l'ex governatore Gianmario Spacca, l'ex presidente del Consiglio regionale Vittoriano Solazzi, entrambi eletti col PD ma poi passati a Marche 2020, l'ex consigliere e attuale segretario regionale del PD Francesco Comi, vari consiglieri rieletti nella nuova legislatura. Allora, i reati ipotizzati, ma chi segue questa rubrica li conosce, insomma, dai. Sono peculato, concorso in peculato per spese ritenute non congrue all'attività istituzionale, pranzi e cene con sostenitori, onomastici, gli ma solo i consiglieri regionali delle Marche hanno ancora l'onomastico, è una cosa pazzesca, onomastici e compleanni festeggiati con i familiari, rimborsi chilometrici taroccati, basterebbe dire rimborsi chilometrici, consulenze improvvisate, regali di Natale, ricariche telefoniche e stampe di manifesti. Migliaia gli scontrini passati al setaccio della Guardia di Finanza di Ancona, un'inchiesta che è iniziata nell'ottobre del 2012. Io gli farei pagare anche le spese dell'attività della Guardia di Finanza, perché in tutto questo poi la Guardia di Finanza fa questo lavoro e non può fare altri lavori. Controlli doganali, spacci di stupefacenti e quant'altro. Facciami pagare anche l'attività delle nostre forze dell'ordine, che devono impegnarsi di questi che si mettono a toroccare gli scontrini. Comunque, le prime perquisizioni, lo ricorderete, nei palazzi della regione già nel 2012, e poi non posso non dirlo, insomma, cioè, facciamo anche noi la lista di tutte queste spese pazze. Ce n'è una che però non posso non citare, quella contestata che mise in rimborso spese all'ex consigliere della Federazione della Sinistra Raffaele Bucciarelli, l'acquisto per 16,80 euro di un libro sull'orgasmo femminile, Il segreto delle donne. Ma bastava che si ascoltasse la zanzara, risparmiasse 16,80 euro, non ci rompeva marroni noi altri. Ma dico, ma si può mettere in nota spese 16,80 euro un libro sull'orgasmo femminile, Il segreto delle donne? Bucciarelli, Federazione della Sinistra, evidentemente troppa politica e poco altro. Allora, andiamo primo in classifica. Purtroppo, guarda, veramente avrei fatto il possibile, ho cercato in tutti i modi con Barbara Bianchi e Mauro Del Conno, che mi assistono in questa classifica, di non mettere al primo posto una certa regione. Non ce l'abbiamo fatta, perché andiamo sul vincitore di questa settimana. And the winner is... l'altra volta, la regione Sicilia, la regione Sicilia. La regione Sicilia deve restituire, probabilmente ha già preso una scopa da 70 milioni di euro, e dopo il traffico lo racconto, per aver speso già dei soldi europei. L'Europa si è accorta di come venivano spesi questi soldi e non glieli ridarà più. Purtroppo alcuni di questi soldi li ha già spesi, 70 milioni di euro. Dopo il traffico, la notizia, si fa per dire. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Oh, la regione Sicilia. Dico, avrei fatto qualunque cosa per mettere un'altra regione. Non è possibile che vinciate sempre a mani basse. Allora, che cosa succede? La regione Sicilia dovrà restituire 70 milioni di euro per un atto passato in silenzio a luglio, nei giorni caldi del caso Tutino. Vabbè. L'amministrazione ha ritirato una delle misure più conosciute e discusse della programmazione 2007-2013, che esaurirà la sua capacità di spesa il 31 dicembre. Qui ci vuole una maiella, però. È la misura del turismo utilizzata per finanziare manifestazioni turistiche e culturali, sulla quale nel 2012 si erano abbattute le critiche della Commissione europea. Che cosa è successo? È successo che l'Unione europea si è accorta che i soldi che lei mette a disposizione per rilanciare il turismo nelle aree depresse venivano utilizzate in maniera non consona, non congrua, e quindi gliela bloccate. Vediamo che cosa e come ha speso i soldi la regione Sicilia. Con i soldi che pensava essere di Bruxelles, e adesso se li trova invece nel conto. Vabbè, dice il turismo, i mondiali di scherma 5 milioni, vabbè, passino i mondiali di scherma. la settimana tricolore di ciclismo, 1,2 milioni, vabbè. Il torneo di golf, il Sicilian Open, 8 milioni di euro, e fin qui. Ma poi vai avanti, perché il Couscous Fest di San Vito, 1,300,000 euro per l'edizione condotta da Vladimir Luxuria, la sagra del Taratata, che cosa è il Taratata? 43.000 euro, mettetemi almeno una spiegazione di cos'è. 43.000 euro, due sfilate di moda fra Palermo e Taormina, immagino che la passerella non andasse da Palermo a Taormina, una manifestazione di pentathlon, anche il tradizionale festino di Santa Rosalia, patrona di Palermo, con i soldi europei, così come il servizio bar e ristorazione del teatro di Verdura, sempre a Palermo. Poi ha speso 9 milioni di euro per il circuito del mito, manifestazione fra il 2011 e il 2012, 3 milioni per finanziare un pacchetto di 4 mostre, Gio Pomodoro Taormina 1,2 milioni, lo scultore costaricano Jimenez Heredia a Segesta 1,2 milioni, il pittore Pino Pinelli a Lipari 570.000 euro e Gianmarco Montesano a Palermo 500.000 euro. Ma poi, allora, tu dici, ma tutto questo va bene? No, i funzionari europei, quando si sono accorti che queste risorse avevano finanziato anche un bar a Rocca Lumera, ma come cavolo fai a pensare che a Bruxelles siano così scemi che ti facciano passare come incentivi per il turismo il finanziamento di un bar a Rocca Lumera, provincia di Messina, la realizzazione del presepe vivente di Agira in provincia di Enna? A quel punto i funzionari europei si sono veramente girati diciamo gli zibedei e hanno detto basta, e scrivono testualmente, fanno notare che il potenziale di attrazione turistica è estremamente limitato o inesistente. E te credo, ma ascolta, un bar che potenziale di attrazione turistica ha e il presepe vivente? Boh. Allora che succede? La regione sospende i pagamenti e ritira la misura, solo che aveva già tirato fuori tanti soldi, 70 milioni di euro, convinta che glieli avrebbe ripianati l'Unione Europea. Così infatti non avverrà, e a questo punto nel Dipartimento del Turismo stanno cercando di imputare almeno una parte di queste allegre spese sulle risorse che si erano liberate dalla programmazione 2000-2006. Bisognerà però distinguere tra spese incoerenti, spese illegittime, spese illegali. Pensa un po' che bravi che siamo. Per la prima c'è qualche speranza di salvezza, per le altre bisogna metterci una toppa. Comunque non c'è nel bilancio bozza di cifra su questi soldi che andranno messi, non c'è un capitolo che contenga i fondi necessari per ripagare questi grandi eventi, questi eventi grandi come costo. Va tutto trovato comunque entro marzo del 2017, perché è l'ultimo termine per la rendicontazione del programma operativo regionale. Brava! Risolleviamoci un attimo, basta, esco sfinito dalla classifica. Risolleviamoci con Desmotech, ossia l'ingegnere Alberto Bertagnolio, fondatore di Desmotech. Buonasera. Buonasera, buonasera. Abbiamo un minuto, poi la tengo anche nella seconda ora. Quando è che avete fondato Desmotech e cosa fate? Abbiamo fondato nel 2012, facciamo macchine per allenamento sportivo e fisioterapia. Macchine per allenamento sportivo e fisioterapia? Mm-hmm. Sì, un po' particolare, diciamo, non così tradizionali, quindi qualcosa di nuovo che sfrutta l'energia dello stesso essere umano per metterla in moto, e poi si può gestire questa forza attraverso un feedback, un software dedicato. Allora, resti con noi dopo, visto che... Quanti anni ha lei? 44, no, guardi, non è una discrimine, le start-up le possono fare anche cinquantenni, sessantenni, ci sono giovani vecchi e vecchi giovanissimi, per cui non è problema. 44 non mi sembra né giovane né vecchio, mettiamola così. GR24, e poi invece ascoltiamo che cosa fate, chi vi ha dato i soldi, quante persone avete assunto e qual è il vostro giro di affari. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e poi anche il numero per WhatsApp. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Deborah, ti piacciono le favole? Ma certo! E allora è arrivato il momento di dimostrarlo scrivendone una per Natale. Ma chi la scrive? È il nostro amico Andrea Vitali, insieme ai nostri ascoltatori, vero Andrea? Sì, dal 1 al 24 dicembre io darò un incipit nuovo, così gli ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. E il migliore verrà letto in trasmissione e riceverà il nostro libro intitolato Secondo Canto di Natale. Siete pronti? State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisone. Adesso arriviamo anche a Deutsche Bank e Commerzbank. Volevo concludere invece il racconto. Come sempre portiamo un imprenditore che ha lanciato un'attività in questi anni di crisi, quindi che ha raccolto la sfida e si è rimboccato le maniche. Alberto Bertagnolio, fondatore di Desmotech, quindi sviluppate macchine, se ho ben capito. Cos'è un allenamento isoinerziale? Allenamento isoinerziale è una macchina che sfrutta l'energia di un disco, quindi di un'inerzia, tipo come fosse uno yo-yo, quando uno inizia a metterlo in moto con una corda, per semplificare molto, questa inerzia inizia a girare, acquistando energia, a un certo punto finisce la lunghezza della corda e inizia a richiamare, quindi è come se fosse un moto perpetuo, che lo stesso atleta piuttosto che persona che la utilizza mette in moto. Ecco, questa è un po' la novità. L'avete fondata nel 2012, giusto? Sì, dove? Sì. A Biella. Noi siamo di Biella. E come è nata l'idea? L'idea attraverso da un amico medico che lavorava ai tempi in università, e ancora adesso insegna a Dublino. Che conosceva questa metodica abbastanza rudimentale, mai sviluppata in maniera, diciamo, sia tecnica che quindi insomma l'idea. Immagino che vi rivolgiate ai fisioterapisti e alle federazioni sportive, credo, no? Sì, diciamo che la cosa, il bello di questo sviluppo, di questa startup, è che ci siamo immersi in un mondo prima di tutto sportivo, quindi noi collaboriamo a stretto contatto con il CONI, le diverse federazioni nazionali, dallo sci al calcio alla scherma e poi le squadre sportive, quindi nel calcio nomi di Serie A, di Serie B e poi in fisioterapia piuttosto che senta, università. I soldi chi ve li ha dati? I soldi all'inizio nessuno. Quindi noi siamo una startup che ha ricevuto adesso un finanziamento privato, adesso dopo tre anni. I famosi business angel. I famosi business angels. In questo caso si tratta di un'associazione, si tratta del Club degli Investitori di Torino, è un'associazione di business angels che hanno creduto in questo progetto. E quanto investito, vi hanno dato? Ma in totale adesso oggi siamo a 220.000 euro nel primo round, ma stiamo andando avanti. Le banche? In questo. Le banche è stata un po' più difficoltosa, diciamo che all'inizio è una classica startup che si è autofinanziata con le vendite, devo anche ammettere, ringraziando i fornitori che ci hanno permesso di azionare i pagamenti, hanno gestito questo. Dal punto di vista delle banche è abbastanza difficile, cioè se li hai puoi garantire, diciamo, questo prestito, questo finanziamento, sì, se non li hai difficile. Ecco, quindi... Ma le hanno chiesto di mettere in garanzia qualcosa di personale? All'inizio sì, sempre qualcosa sì, perché ho dovuto per dare un po' il lancio qualche soldino ho dovuto metterlo personale e quindi garantendo a livello personale. Quanto fatturate e quanto prevedete di fatturare, quanti siete? Allora dico quanto la crescita del fatturato. Il primo anno abbiamo fatto 80.000, poi siamo arrivati fino a oggi, quindi dal 2012 a oggi siamo, quest'anno dovremmo chiudere intorno ai 400.000 euro. Sì. Ma esportate anche? Sì, sì, la cosa interessante è che questo sviluppo sta interessando anche sia l'Europa che adesso il Nord America e il Brasile. Quindi Nord America, posso dire ad esempio i Miami Dolphins, l'NFL e l'NHL, quindi sia nel football che nella corsa, nell'atletica. Quanti siete? Oggi siamo 4 diretti e 2 indiretti, diciamo. Quindi indiretti, tra, collaboratori? Stage e collaboratori, sì, perché un'altra cosa almeno in cui credo mi fa piacere dire è che lavoriamo molto con i giovani, quindi siamo partiti, quindi io vabbè sono intermedio come si diceva prima, però invece i collaboratori arrivano magari da esperienze da stage piuttosto che tesi, quindi ingegneri piuttosto che lavorate scienze motorie, e poi si inizia un percorso di fidelizzazione, ecco, quindi ma lei prima lavorava, immagino, perché non è che è arrivato a 44 anni senza... Niente. No, chiedo, magari c'è purtroppo chi... Sarebbe. E come mai ha cambiato lavoro? Perché mi è piaciuto, una passione. Io diciamo che ho fatto una carriera manageriale, quindi sono arrivato a essere dirigente, però questa possibilità di sviluppare qualcosa di diciamo mio, ma ormai è diventato di nostro, del team, e poter portare avanti un percorso di sviluppo, perché lei poi diceva prima, assolutamente la nostra... Il fatto è già che qualcuno abbia inserito dei soldi all'interno del progetto, vuol dire che stiamo credendo in uno sviluppo importante. Quindi, guardi, io le ero... sviluppo... Sì, no, sì. Guardi, molto devo dire che tutti i casi che portiamo, secondo me, sono belli, ma a maggior ragione anche in questo caso. In bocca al lupo a lei, Bertagnolio, ma ai suoi 3 dipendenti, nella speranza che aumentino, chiaramente, ai 2 stagisti, a tutti i collaboratori. Andate avanti così. Qualcuno mi scrive un'idea vecchia, ho capito che un'idea vecchia è importante, però è sempre farle le cose, poi non stare lì a criticare. Chi fa sbaglia, chi non fa non sbaglia. In bocca al lupo a lei, a tutti i dipendenti della Desmotech, e adesso noi passiamo alla borsa. Borse oggi poco mosse, soprattutto Milano con gli indici meno 0,07%, Parigi meno 0,30%, Francoforte meno 0,20%, l'America che sta per chiudere oggi lavora a mezza giornata, ieri era chiusa per il ringraziamento, oggi chiude alle 19 ore italiana, invariata, Londra meno 0,28%, euro quota 1,05%, tra i titoli segnaliamo... Ancora bene, intanto ci sono notizie sulle banche che adesso ricorderò, che hanno le banche grosse italiane hanno tutte superati i requisiti del patrimoniale della Banca Centrale Europea, soprattutto il Monte dei Paschi, che era quella più delicata, il patrimonio è già oltre il minimo richiesto dalla Banca Centrale Europea. Tutti sono in attesa della Banca Centrale Europea comunque della prossima settimana. Nel frattempo oggi si è venduto il lusso per i timori asiatici, nuovo cinesi, quello che è successo alla borsa di Shanghai. Moncler perde il 3,30%, ma non è l'unica. Ferragamo perde lo 0,90%, Tozzo 0,60%, poi Buzzi Unicem ha perso il 3%, ST Microelectronics meno 2,1%, Tenaris meno 1,70%, Pop Emilia Romagna perde l'1%, come Ubibanca, Anima Holding meno 0,80%, Saipem meno 0,70%, come Eni. Bene, Telecom Italia più 2,80%, Iux Port&Parte più 2,70%, Monte dei Paschi più 1,90%, A2A più 1,1%, Azimut più 0,60%. Telecom tra l'altro si avvantaggia del fatto che il gruppo ha iniziato a vendere il 45% della società che controlla le torri, i ripetitori, Inwit. Snam è salita anche per una scommessa su un aumento dei dividendi, mentre chi ci chiede perché calano i titoli legati al cemento, perché c'è un avvio di indagine antitrust per un presunto cartello sull'aumento dei prezzi del cemento lo scorso giugno. Migliori e peggiori in assoluto, Bastoggi più 14,60, primi sui motori più 9,5, Astaldi più 5,50, Prelios più 5,40, Eurotech più 4,80, peggiori Industria e Innovazione meno 7,90, Agronomia meno 6,40, Innovatech meno 5,40. traffico e poi l'ultima parte del programma. Da un lato botta e risposta questa mattina Mix 24 di Giovanni Minoli, con tra le frasi di Matteo Renzi e l'opinione di Milena Gabanelli, molto divertente, ve lo facciamo riascoltare, e poi invece il giudizio su quello che è successo lo scorso fine settimana, il salvataggio con costi cari per obbligazionisti e azionisti di quattro banche. In realtà il giudizio è un po' diverso, perché c'è un paese che prima ha fatto quello che ha voluto e poi adesso fa gli esami agli altri, si chiama Germania. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. vi presenta Focus Economia. Allora, arriviamo adesso alla doppia morale tedesca: quando deve salvare le sue banche non sono aiuti di Stato, quando invece tocca all'Italia mettere soldi nelle banche sono aiuti di Stato. Prima però vi faccio ascoltare un bel montaggio di quello che è successo questa mattina a Mix 24 Giovanni Minoli, perché sul tema dei contanti continuate a scriverci, la soglia dei 3.000 euro. Allora, io non dico più niente, ho già detto abbastanza sulla misura, però Giovanna Corsetti ha intervistato Milena Gabanelli, conduttrice di Report, sulla decisione di Renzi di alzare la soglia del contante a 3.000 euro, e ha montato assieme in questo modo dichiarazioni di uno e dell'altra. Alzare la soglia del contante fa bene all'economia, è utile? È utile a chi ha molti contanti, certamente avrà meno difficoltà laddove faceva tre operazioni, basterà farne una. Noi abbiamo un 21% di economia sommersa, l'economia sommersa notoriamente si nutre di contante, quel contante deve andare in giro. Però per il Presidente del Consiglio sono soldi degli italiani regolarmente custoditi in banca. C'è un sacco di contante fermo, ce lo dicono le banche, ce lo dicono tutti gli istituti interessati, che sono bloccati perché c'è la preoccupazione che l'Italia sfavorisca e non agevoli i consumi, e quindi l'idea di renderla più semplice è un vantaggio. Gli italiani devono avere la possibilità di poter spendere i denari che hanno. Milena Gabanelli. Se uno ha dei soldi da spendere, li spenda, non ho capito. Deve girare con i rotoloni di contanti in tasca per spendere i soldi. Cioè, nessuno impedisce di spendere contante, ma qual è il motivo, qual è il segnale che si dà innalzando il tetto a 3.000? È un segnale decisamente negativo, vuol dire che non sei interessato a recuperare l'evasione e a mettere e ad introdurre anche la concorrenza leale. Cioè, cosa vuol dire? Nel nero si infila anche questo fatto. Ora, chi agisce in modo regolare, chi emette fattura, ha dei costi che chi lavora in nero e non emette fattura certamente non ha, può permettersi dei prezzi concorrenziali, e questa si chiama concorrenza sleale, non è bello. Il presidente Renzi ha però parlato anche di semplificare. Un paese più semplice, semplificare le misure per il contante, per le partite IVA e per i lavoratori autonomi. Milena Gabanelli. A semplificare la vita di chi ha molti soldi e non un conto in banca, evidentemente, e non ha un conto in banca perché non sa come spiegare da dove prende il denaro. Allora, siccome noi vogliamo rapportarci agli altri paesi, in nessun altro paese gira tanto contante quanto da noi. Allora, la semplificazione sta nell'andare in banca, prelevare dei soldi, tenermeli in tasca e tirare fuori il contante ogni volta che devo pagare una cosa, o tirare fuori una carta e pagare ogni volta che ne ho bisogno. In questo modo i redditi sono tracciabili. In questo modo, se i redditi sono tracciabili, hai un incasso tracciabile e finalmente puoi forse anche abbassare le tasse. E poi, per chi volesse volesse ascoltarsi l'intera parte, rimando a Mix 24 di questa mattina. Ultimo tema, il sogno era sia sulla lotta all'evasione ma anche su quello che sto per dire. Dunque, abbiamo iniziato la settimana raccontando del salvataggio che il governo ha messo in piedi nel fine settimana, consiglio dei ministri straordinario, per quattro banche che erano state commissariate. E abbiamo, cari Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e cari Chieti. 3,6 miliardi di euro con danno per gli azionisti, gli obbligazionisti, e con danno anche per la Cassa Depositi e Prestiti, che deve garantire eventualmente, se tutti gli asset non venissero ceduti, quel 1,6 miliardi che tre banche hanno messo a disposizione. Ma non è questo il punto. Da gennaio parte poi bail-in, che è ancora più duro su questo, cioè va a toccare i correntisti sopra i 100.000 euro e gli obbligazionisti subordinati. Lo abbiamo raccontato. Però perché ne riparliamo? Chiudiamo da dove siamo partiti. Perché giustamente qualcuno ha fatto notare che mentre adesso l'Europa è così dura e ferma nell'idea di avere uno Stato che possa garantire gli aumenti di capitale necessari eventualmente a coprire le perdite, così almeno chi ha sbagliato paga, e dice no, sono aiuti di Stato, la stessa Europa non si è accorta che un paesino piccolo piccolo come la Germania, da quando è scoppiata la crisi, ha messo per salvare in primo luogo Commerzbank e anche comunque gli altri istituti, di Deutsche Bank ieri ho parlato per quello che riguarda l'ammontare di derivati che questa banca ha, e da tutti gli operatori ci viene fatto notare, so benissimo che l'attività di Deutsche Bank in Italia è un'altra cosa rispetto alla casa madre. Comunque la Germania ha speso, se ho ben capito, 64 miliardi di euro. Salvatore Bragantini, buonasera. Buonasera, ma sono di più però. Sono di più, quanti sono? All'ultimo conto mi pare che siano fra soldi e garanzie un paio di cento. 200 miliardi? Di euro. Mi scusi, ma perché quelli non sono aiuti di Stato e adesso a noi, quando si era proposto di fare una, di arrivare a un salvataggio di altro genere, perché qui ci hanno rimesso i soldi 800 milioni di euro obbligazionisti più tutti gli azionisti, l'Europa ha storto il naso e la bocca, ha detto no, sono aiuti di Stato, e anche con la Bad Bank andrà nello stesso modo. Ma quelli sono aiuti di Stato, erano aiuti di Stato, è chiaro che siccome sono stati erogati quei soldi nel momento massimo della crisi finanziaria, in cui l'alternativa era il crollo totale, glielo hanno lasciato fare. Purtroppo diciamo abbiamo un po' di colpa anche noi, perché avremmo dovuto fare anche noi le cose in fretta. Noi diciamo i soldi che sono stati dati alle banche sono tornati indietro, perché col Monte dei Paschi lo Stato ha fatto un affare. Ha fatto un affare al 7% di rendimento. Questi non sono aiuti di Stato, questi sono soldi che sono pagati da un fondo interbancario volontariamente dalle banche, che poi lo facciano, perché altrimenti si avrebbero guai peggiori, e va benissimo, ma lo fanno dei privati, non si vede dove stia l'aiuto di Stato. Ma lei che cosa la mette? Perché lei dice sostanzialmente, attenzione, che l'Italia doveva muoversi in maniera un po' più decisa con Bruxelles prima di farsi mettere nella trappola o nel vicolo cieco. Perché Bragantini? Perché se fosse stato fatto in quel momento, nel momento diciamo 2009-2010, e già comunque diciamo alcuni problemi li avevamo anche noi, saremmo diciamo passati anche noi come la Germania col rosso senza che il vigile dicesse niente. Adesso che la situazione diciamo delle banche non è più quella drammatica del post Lehman, il vigile non ti lascia passare col rosso. Però ripeto che è un errore di sbaglio, perché non sono aiuti di Stato. La Commissione ha adottato un atteggiamento francamente risibile, è arrivata a dire che siccome c'è una legge che fa sì che le banche paghino i loro contributi al fondo interbancario per la tutela dei depositi, e vorrei vedere che non ci fosse, siccome c'è una legge, la legge dello Stato è un aiuto di Stato, ma questa è una roba da sofisti della peggiore acqua. Mi scusi Bragantini, siccome lei è stato anche commissario Consob, ma perché noi non chiediamo a questo punto a Bruxelles, va bene, voi ci state a contare i peli, spaccare il pelo in due, perché essendo una legge, ma anche se non sono soldi delle banche, eppure c'è una legge, potrebbero essere aiuti di Stato, quando però non avete visto 200 miliardi dati dal governo tedesco alle banche tedesche, che, e ripeto, poi non voglio entrare sulla situazione attuale, mi risulta che una banca enorme come Deutsche Bank abbia ancora tutti lì i collaterali, i derivati in pancia. Poi lo dico, no, vabbè, al di là di questo, ma uno non potrebbe dire, facciamo una bella inchiesta, allora, prima di accusare noi di aiuti di Stato, che cosa, quanto i governi tedesco, olandese hanno dato alle loro banche? Certo, è quello che ho anche scritto in un articolo sul Corriere la settimana scorsa. Il problema è che quando sono stati erogati quegli aiuti di Stato, la Commissione ha detto che si poteva fare, e lo ha detto perché era il momento, diciamo così, più drammatico. Dopo, passata la festa, gabbato lo santo, le regole si fanno per gli altri. Certo che se noi fossimo stati più veloci non saremmo arrivati così. Ma secondo lei la Germania rallentava sull'unione bancaria perché doveva prima sistemarsi i problemi in casa? No, secondo me la Germania rallentava sull'unione bancaria perché temeva le fragilità degli altri sistemi bancari, perché lei sapeva che comunque, se servono 200 miliardi glieli do, non faccio una piega. Adesso il vero problema dell'unione bancaria è lo schema europeo di assicurazione dei depositi, perché è quello che è il pilastro mancante. E i tedeschi fino ad ora hanno nicchiato, speriamo che non tirino fuori la questione, che sento già dire che siccome le banche italiane hanno troppi titoli di Stato, allora il titolo dello Stato italiano, che ripeto non ha mai chiesto un euro di aiuti all'Europa, non ha chiesto aiuti, mi sembra che noi siamo i mendicanti, noi non abbiamo chiesto aiuti all'Europa per niente. Noi la riforma delle pensioni l'abbiamo fatta, è la Germania che non l'ha fatta. La Germania ha il surplus dell'8% della bilancia commerciale, che è contro le regole europee. Guardi, su questo lei sfonda una porta aperta. No, ma io lo diamo come modesto suggerimento del fine settimana al governo, visto che da gennaio parte il bail-in e visto che la Germania nicchia sul dare l'assicurazione dei depositi bancari perché c'era con gli italiani, andiamo a fare una bella analisi e andiamo a vedere che cosa è successo nel passato. Basta prendere calci negli stinchi da chi aiuta le banche con soldi di Stato e trucca i motori. Grazie a Salvatore Bragantini, grazie a Mauro Del Conno e Barbara Bianchi anche questa settimana per l'assistenza in redazione sul programma. Un auguro di buon fine settimana a tutti voi, a partire da chi lo passerà lavorando. Radio 24, la passione si sente.